Mi hanno detto che Flavio Torrone non prenderà bene che facciamo questo pezzo live, perché se lo voleva tenere di nicchia per un progetto che sta vedendo la luce, ossia un CD di cover dell'Intolleranza. Questa canzone è Libertà. Yeah. Grazie, adesso salgono gli insetti.